Tempo di sport di Gigi Garanzini. Maradona e Medevelé ci hanno fatto pazza dalla valla. Buon pomeriggio. Puntata speciale, come promesso e come avete capito da questa sigla, dedicata ai 70 anni di Pelé compiuti sabato scorso e ai 50 di Maradona da compiersi il sabato che viene. Cominciamo, direi, dal testo, no, abbiamo già cominciato dalla storica filastrocca dei tifosi napoletani dall'84 in poi, ha reso festoso il San Paolo a Napoli. Cominciamo, dicevo, dal testo che Mina, la più grande cantante italiana di tutti i tempi, ha scritto domenica scorsa per la sua rubrica sulla copertina della Stampa. Mina, è griffato una certa Mina, 50 più 70, 120 anni di genio, di vittorie e di gesti sportivi sublimi e ineguagliabili. Di primati sbalorditivi, di grandi emozioni. Pelé compie 70 anni e Maradona 50, a pochi giorni di distanza. E non è soltanto il segno zodiacale che li accomuna. Due giganti, due benefattori, azzarderei. Sì, perché insieme a loro anche noi, nel buio della nostra cameretta rischiarata dalla luce azzurrina della tele, nell'anonimato della nostra vita, faccio un inciso, sta parlando Mina, nella triste abitudine al quotidiano sbandamento personale, saliamo sul podio, sul gradino più alto e siamo campioni del mondo. Due colossi. Così diversi, eppure così uguali nella meraviglia. Dimentichiamoci del fatto che uno sia un conformista albidestro e l'altro uno sregolato mancino. Azzeriamo i loro bisticci, le loro controversie filosofiche, il loro senso, quasi un complesso di superiorità, l'accettazione o il rifiuto del blatteriano sistema pallone. Spero che almeno in questa occasione si tralasci di rinnovellare un'altra volta a Diego la sua situazione giudiziaria, finanziaria, fiscale o personale. Facciamo loro un regalo, facciamo finta di niente. Anzi, facciamolo noi stessi un bel regalo, riguardiamoci tutti i gol, mettiamoci in fila i suoi e quelli di Pelé e sperdiamoci nel godimento della loro classe sconfinata, irripetibile se non nei replay. Io me li ricordo tutti, ho l'età per aver visto in diretta sia quelli dell'uno che quelli dell'altro. E qui per una volta e solo per questa volta bisogna proprio rendere omaggio alla televisione, che permette al mondo di rivedere le gesta incantevoli di campioni del passato non più in attività. E allora grazie TV, che in questi giorni di insopportabile, spietato martellamento sulla pelle di una ragazzina esile e bionda assassinata ancora non si sa bene da chi, in questi giorni di macelleria della decenza umana, girerai, si spera, lo sguardo ed eseguirai benissimo il tuo compito di memoria e di archivio, l'unico accettabile, mostrando le meraviglie di Diego Armando Maradona e di Edson Arantes do Nascimento. Non desidererei vedere scenette di pace e strette di mano improbabili tra due artisti che mai, incontratisi sul posto di lavoro, pochino pochino hanno concesso a carrambate e a piacionismo. Mi piace l'immagine di storie parallele che non hanno alcun bisogno di intersezioni, di paragoni, di analogie per mantenere valori di grandezza assoluta. Firmato Mina. Allora, questo era il testo di partenza. Le suggestioni mi pare ci siano tutte in questo testo e adesso la tecnica, dunque il professor Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Ciao Gigi. Ho detto che non sarà facile tenere questo passo, eh. No, ma questo pezzo. Sono felice che anche tu lo abbia apprezzato, perché insomma Mina ce la ricordiamo come la più bella voce della storia della musica italiana, ma sinceramente anche con la penna se la cava, la ragazza. Sì, ma anche le notazioni tecniche, se vogliamo dire tecniche, sono azzeccatissime, voglio dire, mi ha impressionato questo, è uno sfoggio di competenza, oltre che di bravura linguistica, diciamo. Sono d'accordo. Allora, senti, io partirei dal Guerin sportivo di 10 anni fa. In occasione della fine del millennio, quello scorso per l'appunto, tu dedicasti sul Guerino una serie di 50 ritratti ai più grandi visti da te sino ad allora. La tua classifica di 10 anni fa era la seguente, non ne leggo 50, leggo i primi. Primo Pelé, secondo Maradona, terzo Di Stefano, quarto Cruyff, quinto Meazza, sesto Puskas, settimo Valentino Mazzola, ottavo Juan Alberto Schiaffino, nono Platini, decimo Beckenbauer. Seguono undicesimo Van Basten, poi Eusebio, Garrincha, Rivera, Zico, Sivori e possiamo andare avanti all'infinito. Allora, prima di arrivare strettamente a Pelé Maradona, in questi 10 anni chi ti suggerisce di aggiornare eventualmente questa classifica e in quali posizioni? Ecco. Ecco, io allora seguì un concetto di prendere in esame tutti i calciatori, perché se parliamo di un secolo, quindi tutti il calcio il Novecento è stato definito il secolo del calcio. Eh beh, e quindi, più miniera di così. Esatto. Tranne quelli in attività, a meno di folgoranti eccezioni. L'eccezione riguardò Ronaldo, che sì. In effetti dopo di allora fece in tempo ancora a vincere un mondiale, a laurearsi cannoniere dei mondiali, eccetera. Ronaldo era 19esimo, faccio un inciso. Sì, 19esimo in attesa di approfondimenti. Certo. Che è stato poi a luci e ombre, voglio dire, si è confermato grandissimo e poi ha avuto e sta avendo tuttora un declino non proprio esaltante. Vabbè. Fatta questa premessa, io metterei dentro Messi sicuramente, sì. In una posizione comunque di attesa, perché a livello di nazionale sinora si è mostrato poco, però le impressioni visive non debbono essere cancellate, questo è un fenomeno, insomma. Quindi mi rifiuto di pensare che non sia un fenomeno. Cristiano Ronaldo in una posizione più arretrata per adesso rispetto a Messi. Fino a 2 anni fa ci avrei messo anche Ibrahimovic, adesso avrei dei dubbi. Poi mi fermerei qui. Ci fermiamo qui. Uno che in attività sia comunque in grado di prendere il posto di 50 nell'arco di un secolo, ecco, sì, bisogna che abbia un mucchio di referenze e di conferme. Sì, anche perché io lo dico a beneficio degli ascoltatori, tra questi 50 leggo, non so, Bobby Charlton, Nordahl, Baggio, Matthews, Gerd Müller, un centravanti stratosferico, Ide Guti, insomma, Lidl e finché ce n'è. Siamo già arrivati al primo intervallo, sentiamo come va sulle strade. Torniamo in compagnia del professor Bortolotti, lo ripeto, sta facendo una lezio magistralis sui più grandi di tutti i tempi e dopo aver inquadrato insomma, i criteri, i perché e i per come, arriviamo a questi due compleanni, e cioè per te, per la tua classifica, primo Pelé, secondo Maradona. Allora, spiegacelo e illustraci le ragioni per cui. Io poi potrei anche non essere d'accordo e ne discutiamo insieme. I dati erano 3 e il mio personale preferito era Alfredo Di Stefano, che sì. Però ho messo terzo perché così, proprio per non fare troppo prevalere il gusto personale, trattandosi di una classifica che doveva anche riflettere un consenso generale, ecco, sì. Pur essendo una classifica personale, perché fatta da una persona. Faccio un inciso. Visto Di Stefano, uno aveva già visto tutto del calcio, cioè era la perfezione, la completezza, eccetera. Però c'erano poi dei riscontri, è uno che non aveva vinto nulla a livello di rappresentativa nazionale, anche perché aveva giocato in 3 nazionali, essendo un giramondo, aveva vinto moltissimo con Real Madrid, con il suo Real Madrid a livello di club. Sì. Quindi Di Stefano lo avevo messo terzo con grande rammarico. Con grande rammarico, e ti dirò che faccio un inciso, più tardi leggerò un brano scritto da Enzo Bearzot non molti anni fa. Come te, lui come te e come altri che hanno visto il Di Stefano dei tempi d'oro, hanno avuto quella fortuna che poi oggi anagraficamente si trasforma in una fortuna relativa, ma dal punto di vista della documentazione lo è. Sono tanti, non siete davvero pochi a pensare e ad aver scritto o detto che in realtà il massimo che si è visto al mondo nella storia del calcio era Alfredo Di Stefano. Ma noi, appunto, torniamo a Pelé e Maradona. Pelé, per me era abbiamo detto, Di Stefano la completezza, insomma, la perfezione, la completezza. Pelé il talento puro, cioè l'esaltazione di uno che nasce con il dono del calcio e fa tutto bene, fa tutto nel modo più semplice, più naturale, più fluido. Io ho in mente quei mondiali del 58, dove non aveva 18 anni ancora e faceva cose straordinarie con una naturalezza incredibile. Sì, vero. E Maradona è, rispetto a Pelé, è stato secondo me più decisivo, nel senso che Pelé ha vinto 3 mondiali, 2 veramente mettendoci tantissimo di suo, con una squadra che poteva vincerli ugualmente. Non so se li avrebbe vinti senza di lui, ma era in grado di vincerli senza di lui. Il mondiale che ha vinto l'Argentina di Maradona, senza Maradona non sarebbe arrivata, credo, ai quarti di finale, a essere generosi. Hai detto una cosa che intanto è un messaggio che è passato, chiaro che detto da te ha un'altra autorevolezza, ma insomma questo è passato un po' nel comune sentire calcistico parlando di questi due. C'è anche una piccola controprova, piccola ma lo è in ogni caso. Nel 62 il Brasile vinse il mondiale con Pelé infortunato subito e con Amarildo che prese il suo posto. Benissimo il suo posto. Quindi anche questo è un riscontro. Infatti dei 3 mondiali, in quello la sua partecipazione fu molto marginale. A favore di Maradona c'è anche di aver affrontato la controprova europea, che è fondamentale, credo, per un campione, che invece Pelé, quella gli è mancata. Non credo che possa essere messa sullo stesso piano la parentesi americana, più folcloristica che tecnica, ecco. Però ecco, tutto questo avrebbe dovuto indirizzarmi verso Maradona. Alla fine mi è rimasto il concetto che se uno fra non so 4 o 5 secoli, voglio dire, il calcio di Capelè, e quindi una classifica del secolo del calcio, secondo me doveva avere Pelé al primo posto, anche se ragioni specifiche potevano portarmi su altre scelte. Provo a tradurre questa tua convinzione, che capisco, nel senso che la spiegazione potrebbe essere che Maradona è più emozionale. Maradona ti ha dato dei sussulti assolutamente unici, ma la sensazione che tu hai da Pelé è quella di una perfezione più completa, probabilmente. Sì, questo è una perfezione assoluta, è nato col pallone, ecco. Sì. Per cui cos'è il calcio? È Pelé. Diciamo cos'è il calcio in una parola, diciamo Pelé. Poi sono ferme restando le altre considerazioni, per carità. Dopodiché, se vogliamo aggiungere un fattore che io non presi in considerazione e che credo non sia giusto prendere in considerazione, ma al quale pure bisognerà fare accenno, l'immagine di Pelé è sicuramente più spendibile che l'immagine di Maradona. Mi fermo qui perché ho apprezzato l'appello di Mina a lasciare perdere certe cose. Sì, ma lo condivido, ecco. Certo. Però nel mettere una copertina sul secolo di calcio, ecco, in questo senso l'immagine di Pelé è forse più adatta. La difficoltà che tu c'hai così ben testimoniato alla fine della scelta, cioè di dover comunque alla fine volere alla fine scegliere, l'ha tradotta, perché noi da un paio di giorni abbiamo chiesto mail, abbiamo chiesto voti, abbiamo chiesto cose ai nostri ascoltatori, e ce n'è uno in particolare, in tanti hanno scritto cose intelligenti che poi leggerò. Uno in particolare, da Cornedo Vicentino, si chiama Davide Cariolato, ha scritto: stabilire chi sia stato il migliore tra Maradona e Pelé è come chiedere a un appassionato di musica se sia migliore il suono armonioso e caldo della chitarra classica o quello potente e pieno di energia della chitarra elettrica. L'ho trovata deliziosa. È vero? Perché davvero? Perché Pelé era chitarra classica e questa era la chitarra elettrica, e qualche vibrazione in più te la dà, ma nello stesso tempo il classicismo che più ammiri è il primo. No? Esatto. Fantastico, veramente, veramente bello. Infatti, sì, dovendo dire una parola, Pelé è la tecnica insomma, la classe, diciamo, Maradona è l'emozione e Di Stefano, vabbè, è la completezza. La sintesi. La completezza è sempre meno affascinante, questo è ingiusto probabilmente, ma è così. Adalberto, c'è rimasto un minutino, in questo minutino mi piacerebbe un ricordo che è un altro compleanno, il 24 ottobre del 40, cioè all'indomani della nascita di Pelé, è nato un giocatore che ci è caro, il cui ricordo purtroppo ci è caro ed è caro a te in particolare, che è Giacomo Bulgarelli. Sì, noi siamo stati al suo paese natale, noi dico io, alcuni colleghi, alcuni amici, sabato scorso, proprio perché c'era una specie di festa, in quanto in genere non si fa festa ricordando un campione che è morto tutto sommato giovane, certo. E comunque prematuramente, ma era molto nello spirito che Giacomo ha sempre avuto e lo abbiamo ricordato a Porto Novo di Medicina, che è il suo paese natale. Bulgarelli è uno dei rimorsi che ho avuto quando ho stilato quella lista, perché io, non solo io, ma molti che sono più autorevoli di me, lo ritengono il più completo centrocampista italiano del dopoguerra, ma in quei 50 non gli trovai un posto, forse perché temevo che trovandoglielo mi si potesse imputare una sorta di tributo d'amicizia. In realtà è stato un grande campione sotto tutti i profili e sì, era nato un giorno dopo Pelé, quasi una predestinazione. Era un bel periodo quello, tutto sommato. Era altro se era un bel periodo. Adalberto, io non so come ringraziarti anche a nome degli ascoltatori che stanno scrivendo per questa, ripeto, lectio magistralis di calcio storico. Adalberto, a presto, grazie. Grazie a te, a risentirci. A risentirci, noi ci sentiamo gli aggiornamenti dei mercati. Maradona e Medevelé ci hanno fatto pazza dalla valla ve. Maradona, faccio donna, sto scudetta portangilla parte ca. Fantastico. Avete sentito che poi non è poi detto che Maradona sia meglio di Pelé, per esempio non lo è per Adalberto Bortolotti, dopo uno spareggio avete inteso, no, nel suo racconto quanto ha sofferto, anche ricostruito a distanza di 10 anni. Il nostro sondaggio, che è attivo e che sarà tale fino a domani, fino all'ora della puntata di domani sul sito di Radio 24, vede Maradona in vantaggio, ma non particolarmente per distacco. Ho qui moltissimi vostri interventi. Ce n'è uno, per esempio, Francesco Danelli scrive una cosa interessante. Mi sembra che Pelé sia considerato il più grande ancora oggi principalmente in Europa, ma in Brasile molti tuttora indicano il più grande in assoluto in Mané Garrincha, e questa è un'altra suggestione da tenere presente. Pelé è stato Pelé per il Brasile, ma il giocatore brasiliano che più è entrato nei cuori loro è rimasto probabilmente Pelé Garrincha. E poi ci sprecano tante definizioni brillanti. Massimiliano Guidetti ha scritto, sto sempre parlando di voi ascoltatori, ha scritto: Maradona è un prodigio del calcio, Pelé è stato un prodigio della natura. Giacomo ha scritto: a me piace molto il basket, accosterei Pelé a Jordan e Maradona a Magic Johnson. Io non conosco il basket e quindi non so dire se sia azzeccato o meno, però è giusto per raccontare quante siano le suggestioni. Carino Lucio Versiglia che scrive: quando parlavo con mio nonno e dicevo che per me Maradona è il più grande di tutti, lui mi imbrottava perché non avevo mai visto giocare Pelé e perciò non potevo e fare un parallelo corretto. Allora io lo stuzzicavo e gli dicevo: e tu che hai visti tutte e due cosa dici? E lui rispondeva a voce alta: Maradona! Che insomma, dà l'idea, no, del divertimento. Sentiamo le due strati di telecronache storiche su due prodezze che abbiamo ancora negli occhi e che non dimenticheremo mai. Il gol, lo storico slalom di Diego Maradona all'Inghilterra ai mondiali dell'86. Lo Oh, questo è andato avanti ancora un po', intendiamoci, perché dura 1:11 questo file, per l'esattezza. Quindi pensate che questo andò avanti a strillare per 1:11, ma d'altra parte quel giorno non perse la testa solo il telecronista argentino, la perdeva un po' tutti, no? anche semplicemente davanti alla TV. Continuo con dei giudizi che mi hanno colpito. Marino Modena scrive da Nole, provincia di Torino, parafrasando Giampaolo Ormezzano, che fu interpellato ad esprimere un giudizio su Coppi e su Merckx: io direi che Pelé è stato il più forte e Maradona il più grande. E anche questo è un altro da tenere presente. Sentiamo una prodezza che invece ci fece un po' meno piacere, che è quella di Pelé nel 70, col famoso gol d'apertura in elevazione su Burnic. Guarda, tu stai un po' bro per arrivedere, ma poi a bocca da meta, pula per la cabeza, fantastico, si strozzò praticamente. È vero, José Altafini? Ciao Gigi. Ciao José. Senti, tu sei stato, io lo dico per i più giovani, perché per noi è una storia che conosciamo, per te soprattutto sulla tua pelle. Nel 58 tu hai 20 anni, quindi non eri il titolare. Cosa qua? E lei dicevano che aveva 17 anni, perché in Brasile sono abitudine del Brasile che fin con un compie di anni, anche se manca 2 giorni, non diranno mai che tu hai 18 anni. Sì. E lei aveva 17, ma compiva ottobre 18 anni. Sì. E io avevo 19 anni e compivo a luglio 20 anni. No, però tu sei stata una vittima, perché tu eri il titolare, il centravanti titolare del Brasile, avevi già fatto i tuoi gol. Pelé, allora ti spiego una cosa. Pelé è Dio Pelé, Dio Pelé. Sì. Eravamo tutti e due titolari. Sì. Perché Pelé, i 22 giocatori erano composti di 2 giocatori per posizione. Sì. Io riservo di lui, era papà. Pelé e Dida, contendevano nella mezzala sinistra. Dida era del Flamengo, sì. Dimo Assir, Garrincha, Joel, Zagallo e Pepe. Poi c'è l'attacco, i 10 dell'attacco. Io non ho perso il posto a Pelé. Pelé non ha giocato la prima partita, non ha giocato la seconda, poi ha giocato la terza, ha giocato con Vavà, sì. Vavà è entrato il mio posto, e poi la quarta abbiamo giocato io e Pelé. Perché va a essere infortunato. Cioè, questa è la realtà. Questa è la ricostruzione, sì, perché poi si vedono degli spezzoni di allora, no, e sembra che. No, Gigi, secondo noi non stiamo parlando di me, stiamo parlando di Pelé. Certo. Allora, io mi meraviglio quando vedo moltissima gente a domandare chi era più forte. È giusto che chi ha visto Maradona pensa che Maradona è più forte. Io vi racconto un particolare. Molti anni fa c'era un centenario del Milan e hanno eletto i migliori giocatori. I 3 migliori giocatori di ogni posizione. Sì. Io quella sera lì, che era in quarta festa, sono andato via, avvilito, perché hanno dato una posizione a UEA e non c'era Norda. E tu sei, non tu... parlo di me, non parlo di me, no. Non c'era Norda. Io dico, ma come? Il secondo capocannoniere di tutti i tempi d'Italia non era nella classifica del Milan, che ha segnato tantissimi gol. Vado via, sei andato via. No, sono andato via dopo, ma, commentando con gli altri, ma come si fa? È la stessa cosa, Pelé e Maradona sono i 2 migliori giocatori del mondo, ma Pelé è superiore a Maradona, perché Pelé ha fatto 1225 gol, sì. Ha vinto 3 mondiali, è stato capocannoniere 8 volte, 7 volte, ha segnato, era un giocatore che giocava di destro, di sinistro, velocità, acrobazia, avete visto come di testa, e anche un giorno con Santos in una squadra brasiliana, lui fece un gol, iniziavano 1-0, il portiere si fece male, purtroppo non si era in sostituzione, lui è andato in porta, ha parato tutto. Fantastico. E questa è la migliore del mondo, c'è poca storia. Cioè lui era nato, era il calcio davvero. Senti, ma perché secondo te allora noi che abbiamo, forse per un fatto anagrafico, cioè noi che siamo un pochino più giovani di te, un pochino, ma non tanto. Qualche mese. Perché ci ha colpito così tanto la suggestione di Maradona al punto di arrivare a pensare che sia stato più forte lui? Ma allora ti faccio un esempio. Se tu prendi l'altro giorno c'è stata una specie di indagine di Sky, qual è il numero 10 più forte del mondo? Allora, che l'ho fatto tutto per le 10. sto passando Maradona, Platini, Zidane, perdi chi vuoi tu, Pelé, sì, e Baggio, Rivera, ma nel Piero migliore, secondo te è il migliore numero 10 di tutti i tempi in Italia, no? Nel mondo, ma stiamo scherzando, c'era anche Busca, c'era tanta gente, sì, ma non voglio dire che Del Piero non è un bravo giocatore, no, chi ha votato è più recente, no? Ho capito. Se dicono qual è il migliore oggi, il migliore giocatore, diranno che è Messi. Certo. Un giorno o l'altro diranno che è Messi è meglio di Maradona. Un giorno, mi sono reso conto di quello che sto dicendo. È già che è stato detto. Sai cos'è bello? Sai cos'è bello, José? Al di là del fatto della... No, del merito vero della questione. Il bello è la passione che tu ci metti ancora, perché tu sei un ragazzo che ha compiuto i suoi, temo, 72 anni. Sono 2 anni più di Pelé. Dai, 2 anni più di Pelé, mica poi così tanti. Allora, sai, Gigi, è più bello essere giovane dentro, no? Sì. È come per l'amore, il cuore non va a rompere. Ma non c'è dubbio, ma sai dov'è che oltre a questi 5 minuti che ci hai regalato, io la passione la sento, perché al di là di Pelé e Maradona, io quando ti sento raccontare e descrivere le imprese di Messi nelle tue telecroniche su Sky, ci sento la stessa passione che tu mettevi allora a giocare in campo accanto a questi qua. Ma sai, Cici, io penso che la gente deve imparare una cosa, che io amo il campione, non la maglia. La maglia posso ti fare per Milan, Inter, Juventus, Napoli, insomma. Certo. Posso, però è il giocatore che io amo. Io, sarebbe difficile per me parlare bene di Messi, che è un argentino. No, perché Messi è più fuori dal mondo. Certo, oggi non c'è dubbio. Oggi non c'è dubbio, ieri non c'è dubbio, per José Altafini, che fosse un certo Pelé. Sì, perché molta gente non ha visto lui giocare. Certo. Gente che dice è fortissimo Di Stefano. Io ho visto Di Stefano giocare, era fortissimo. In Argentina c'era un giocatore che nessuno conosce, si chiama La Bruna, è il miglior, è a metà la sinistra dell'Argentina. Lo so. Però la gente non lo sa. Certo. Se io dirò, adesso posso dire, Gisegar, sì, era il migliore di tutti, però non ti hanno visto. certo, non avendomi visto ci possono anche cascare. Sì, una volta su un campo inglese mi hai anche fatto un assist che non ti dico, ma questo scadremo nel privato. Grazie, José. Ciao, grazie. Grazie ancora. Questo in genere è il momento della rubrica di Nicola Filippone. Oggi, dal titolo sembra ieri, oggi dato che sembra più l'altro ieri che ieri per la verità, diamo una veste, come dire, vagamente anomala. Allora, di Pelé ci sono 3 ricordi legati al 27 ottobre. Un gol nel 57, quindi prima ancora che debuttasse da 17enne al Mondiale l'anno prima, ed era già in Santos Palmeiras 4-3, ed era già il 50esimo gol in carriera. L'anno dopo, il 26 ottobre, dopo il Mondiale, Santos Botafogo, sempre il 27 ottobre, finì 4-0 con 3 gol di Pelé. Nel 59, l'anno dopo, invece toccò un amichevole. Il 27 ottobre fu il giorno di un amichevole, la squadra dell'esercito brasiliano contro la squadra della marina brasiliana finì 6-1, perché combinazione in una delle squadre giocava Pelé, e segnò questi 3 gol, immagino fermandosi. E il 27 ottobre dell'85, invece, Maradona fu intervistato dalla RAI prima della partita di Torino, sul campo del Torino, perché era leggermente infortunato al ginocchio e non avrebbe dovuto giocare. Sentiamo. Diego, è la domenica sportiva. Ha provato? Sta bene? Abbiamo fatto la prova oggi mattina. In palestra com'è andato? Beh, no, il riscaldamento di tutta la domenica. Non è niente di particolare. Manca 20 minuti all'inizio della partita. Pensa di giocare? Sì, per questo ho fatto la prova oggi mattina e fatto il riscaldamento. Se no, non lo facevo. Sì, il Napoli quel giorno perse 2-1 sul campo del Torino, sto vedendo il tabellino, un gol di testa di Sabato, un gol sotto porta di Comi, sul 2-0 segnò uno del Napoli su punizione, combinazione, era quello che non doveva giocare, cioè era Diego Maradona. Una lettura, un'altra lettura, abbiamo cominciato con Mina, adesso io leggerei un paio di passi di ricordi di Griffati Enzo Berzot. Quando Berzot parla di Pelé, scrive: Pelé è stato un fenomeno e questo non si discute, ma gli è mancata l'esperienza europea con cui Di Stefano e Maradona invece ci sono cimentati. Pelé è stato come un grande cantante che abbia trionfato ovunque ma senza cantare alla Scala. Il calcio europeo è quello che ogni domenica ti fa trovare un Nobby Stiles. Nobby Stiles, per i più giovani, era il mastino dell'Inghilterra, campione del mondo del 66, appiccicato alle costole e dedito a gonfiarti le caviglie. Di Stefano e Maradona ci sono passati, Pelé no. E questo fa sì che nel mio album di Fuori Classe le immagini di Pelé non siano perfettamente a fuoco. Per pronunciarmi, io preferisco disporre di istantanee nitide, viste e riviste mille volte, come per esempio quelle di Cruyff, che era stato l'alfiere della tecnica sposata alla velocità. Ecco, Cruyff è stato un vero prototipo, come a suo tempo lo era stato Di Stefano. Poi questo testo continua e arriva per esempio a Maradona, e di Maradona lui scrive... Dunque, se ne parlava già ai tempi del Mondiale d'Argentina. Io lo vidi giocare nell'Argentinos Juniors all'epoca del sorteggio del Mondiale argentino, quindi fine 77. Era un ragazzino, ma già faceva cose favolose. Il presidente della società, quando gli fui presentato, mi chiese perché non lo comprassimo noi italiani. Gli spiegai che non solo io facevo un altro lavoro, ma in ogni caso le frontiere da noi erano chiuse. Lo rividi poi, è sempre Berzot che parla e racconta, lo rividi poi Maradona a Londra quando aveva 19 anni, era già un leader. La prova era che i compagni di nazionale, campioni del mondo in carica, gli davano la palla in continuazione, pur essendo Diego l'ultimo arrivato. Il fatto è che i veri grandi campioni non hanno bisogno di chiedere la palla, sono i compagni che gliela danno e basta, perché sanno che è come metterla in banca e se c'è da mettere qualcosa al sicuro, soldi o palloni che siano, si cerca sempre la banca più affidabile. Maradona era inarrivabile negli ultimi 30 metri, grazie a qualità naturali d'eccezione, probabilmente uniche, davvero e proprio prestigiatore. E allora, invece di una classifica di valori assoluti, che non mi è congeniale, facciamone una diversa, nominando i più grandi nelle rispettive fasce di competenza. Di quelli che ho visto io, Maradona è stato il più grande degli ultimi 30 metri, Platini degli ultimi 50, Cruyff sui 60-70 metri, ma Di Stefano su tutti i 110 del campo. Questa è l'opinione storica di Enzo Berzot. Stiamo insomma spendendo dei nomi discreti, no, mi pare, oggi. E allora tanto vale per due ritratti d'autore affidarci a un bravo doppiatore, come possiamo permetterci noi a Radio 24, e ad affidargli un testo prima su Pelé e poi su Maradona, griffato niente meno che Gianni Brera. Pelé. Mi dico di non aver mai visto nulla di simile. Gli dedico epinici. Mi esalto e lo esalto. L'ho veduto far questo. Coricare tre birilli e battere di sinistro sul portiere. Palla che schizza verso il fondo. Prima che esca, continuando la corsa, Pelé compie un balzo e ricade col sinistro sulla palla. La colpisce in volo in modo che si infila tesa e bassa in diagonale. O gongora ticheta, ch'io non son poeta. Se avete capito Dolce Chiara e la notte senza vento, non ho bisogno di proseguire. Pelé vede il gioco suo e dei compagni. Mettete tutti gli assi che conoscete in negativo, poneteli uno sull'altro. Stampate, esce una faccia nera, non cafra. Un par di cosce ipertrofiche e un tronco nel quale stanno due polmoni e un cuore perfetti. È Pelé, ma ce ne vogliono molti di assi che conoscete per fare quel mostro di coordinazione, velocità, potenza, ritmo, sincronismo, scioltezza e precisione. Era un testo griffato Gianni Brera, evidentemente, e quindi Mario Nutarelli, insomma, ci si è dovuto impegnare un bel po', perché chi non è avvezzo alla prosa di Brera, un minimo di fatica la fa. Bravissimo, bravissimo Nutarelli, che altrettanto bravo deve essere stato nell'altro brano che abbiamo selezionato dalla sterminata produzione breriana e che è dedicato invece a Maradona. Maradona è la bestia iperbolica, nel senso infernale, anzi mitologico, di Cerbero. Se fai tanto di rispettarlo, secondo lealtà sportiva, lui ti pianta le zanne nel coppino e ti stacca la testa facendola cadere al suolo come un frutto dal picciolo ormai fradicio. È capace di invenzioni che forse la misura proibiva a Pelé, morfologicamente irregolare nei soli piedi piatti. Maradona è uno sgorbio divino, magico, perverso. Un jongleur di puri calli che fiammeggiano feroce poesia e stupore. È dei poeti il fin, la meraviglia. Talora uno dei suoi piedi serve fulminamente l'altro per una sorta di paradossale ispirazione, atta a sorprendere. Ma quando vuole, questo leggendario scorfano batte il lancio lungo che arriva, illumina, ispira. Capisce allora che i ghiribizzi in loco erano puro divertissement. Esibizione per i semplici. E il calcio si eleva di 3 spanne agli occhi di coloro che, sapendolo vedere, lo prediligono su tutti i giochi della terra. Per chiudere leggo qualche dichiarazione di voto, o qualche voto. Per esempio Danilo Spadoni ha votato per Maradona, ma sto veramente scegliendoli tra i tantissimi arrivati. Credo che tecnicamente Maradona sia arrivato più in alto, ha scritto Jacopo Righini da Firenze. Maradona meglio e Pelé, scrive Roberto Corti. Mi rifiuto di scegliere, perché sono due fenomeni assoluti, ha scritto Maurizio Galli. Maradona perché ha giocato in Europa, Alessio Fucelli da Perugia. Per me il più grande di tutti i tempi Maradona, anche se farei un pensierino a Platini, scrive Luca Zocco. Gianni Sparacello da Siracusa dice Pelé. Viva Diego, e quindi la dichiarazione di voto di Paolo Cecchetti. Giorgio Motta ha fatto una pagella comparata, è arrivato a 64 punti per Pelé e a 61 per Maradona. Sarebbe troppo lungo descrivervi i parametri. Sto guardando in regia per vedere quando finisce il tempo, ci siamo più o meno, ma Pelé tutta la vita, tuona un ascoltatore, a cui risponde Mark Edmondson, voto per Maradona. Insomma, possiamo andare avanti, io credo, all'infinito. In parte, ma solo in parte, continuiamo domani dandovi il resoconto dell'esito di questo sondaggio, per cui potete continuare a votare sul sito di Radio 24. Per il momento grazie a Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio. Tempo di sport. Sentiamo come va su strade.